La nuova incarnazione di Opencast del GL Como in formato video utilizzando le stupefacenti tecnologie moderne che l'open source ci mette a disposizione. Stasera abbiamo un ospite in più, salutiamo Alberto che ci ha, come dire, ci onora della sua presenza. E Elena e Salute, grazie. Diego, i nostri inviati varesini. Ciao. Direi che possiamo anche cominciare subito con l'enorme mole di notizie che abbiamo preparato da discutere. Darei la parola a Diego, che ci vuole parlare di Lenovo. Che dici, com'è? Lenovo. Com'è Lenovo? Lenovo. Allora, la novità di Lenovo è che ha deciso di supportare Linux sui suoi portatili e sui suoi desktop. Per l'esattezza, la novità è che da inizio giugno, il giorno dell'annuncio ufficiale, Red Hat e Enterprise e Ubuntu sono le piattaforme Linux supportate ufficialmente sui desktop e su alcuni portatili di Lenovo. Quindi Quindi, supporto ufficiale di Linux sui portatili Lenovo. che non è poco, visto Ok, che solo su alcuni portatili, non su solo, tutti. allora, qui parla di ThinkPad serie P come Palermo. Ok. Però questo fa ben sperare che poi in futuro ci saranno anche altri modelli che saranno poi supportati ufficialmente. Quindi supportati tutti i processori Intel, suppongo. Sì, soprattutto supportati tutti i device presenti sulle loro macchine, che di solito è sempre quello il problema. Anche se ho sentito che ultimamente stanno incominciando a mettere Ryzen, quindi piattaforma AMD, su alcuni dei loro portatili. Hanno una linea particolare che dovrebbe uscire entro fine anno, se non ho letto male, e quindi avremo tutta la potenza sprigionata dall'architettura Zen che probabilmente farà calare le braghe, secondo me, ai processori Intel in certi ambiti. E vediamo, dai, vediamo come va a finire. Secondo me dovremmo sperimentarlo subito perché come il nostro amico alieno collegato sulla chat IRC che trovate a fianco al video ci fa notare, l'audio è un po' disturbato, purtroppo è un problema dovuto al mio portatile con Intel che a quanto pare non riesce proprio a fare lo stream e la registrazione stasera. Stasera è così, per cui è stato un inizio difficile, stasera ve lo dico, se qualcosa non funziona scusateci. Beh, potresti fare come Linus Torvald, ha cambiato PC, cosa ha preso? Un Mac. No, ha preso un AMD con mi sembra 16 o 32 core, una roba del genere. Quasi Dice che quasi. gli serve molto in sede di compilazione del kernel, gli dimezza i tempi. Allora ci penso, mi prendo un AMD bello pompato, lo tengo qua sotto la scrivania solo per fare Opencast, potrebbe essere un'idea. Ci sta, eh. Va E bene, poi cioè. d'inverno puoi compilare qualche kernel così ti riscalda un po' la stanza. Certo, ma secondo me anche solo fare questo, perché già adesso così vi assicuro che la situazione è a tratti insostenibile. Avevi altro da aggiungere? No, personalmente no. Forse qualcosa, Diego o Elena? Avevo io da aggiungere che al momento il supporto ufficiale di Lenovo è dedicato a distribuzioni controllate da aziende con cui hanno potuto fare accordi commerciali. Specificatamente supportano Red Hat Enterprise e Ubuntu. Però, pochi giorni dopo l'annuncio sulla mailing list Debian Project è arrivato uno sviluppatore Lenovo a chiedere informazioni su cosa si potrebbe fare per supportare ufficialmente anche Debian. Le risposte sono state abbastanza interessate da parte della comunità Debian, da parte dell'azienda Lenovo c'è interesse per la cosa, ovviamente non essendoci un accordo commerciale dietro, non, Debian non cambierà le sue, i suoi standard per Lenovo, quindi ad esempio il supporto per le varie componenti hardware eccetera dovrà continuare a entrare nel kernel mainline e nelle versioni upstream dei, dei programmi prima che possa entrare in Debian. Però c'è interesse per star dietro rapidamente a, a queste modifiche per aiutare a, a migliorare il supporto di Debian su, cioè per Debian sui portatili Lenovo, sia a livello volontario che in alcuni casi anche c'erano degli sviluppatori disposti a firmare un NDA per poter eventualmente avere accesso ai, ad hardware non ancora uscito o cose del genere. Non si, non c'è ancora un piano preciso per cui il giorno tot ci sarà supporto, ma c'è voglia di collaborare. Sempre parlando di Debian, cosa che comunque questa notizia non è roba da poco, stiamo parlando di Lenovo che si interessa a supportare ufficialmente Debian, sì, e siamo tutti molto contenti di ciò. Sempre parlando di Debian, è notizia del fatto che è adesso possibile, so che questa cosa interesserà a molte persone, è possibile compilare le app per Android utilizzando... Sì, esatto. Esatto, allora fino ad oggi per compilare delle app per Android, anche se Android tecnicamente è software libero e tutto qua, la, l'SDK di Android è libera, cioè, ci sono i sorgenti eccetera eccetera, ma fino ad oggi per poter compilare app per Android l'unico metodo fondamentalmente era scaricare l'SDK di Google, che comprende sia le componenti libere che le componenti proprietarie. Quindi era estremamente difficile riuscire a compilare un'app per Android senza fare uso di software proprietario. E poi c'è il fatto che bisognava scaricare un pacchetto di terze parti, installarselo, starci dietro, eccetera, eccetera. Già da un po' di anni invece c'è un progetto all'interno di Debian per supportare le toolchain mobile in Debian, e hanno appena dato l'annuncio che finalmente sono riusciti ad a pubblicare dentro Debian una toolchain completa per sviluppare e compilare app per Android, che è un discreto traguardo perché non è stato facile. Questo potrebbe anche semplificare cose come, non so, continuous integration, cose del genere, suppongo. Già, sì. Probabilmente sì. Perché... Te dici, a me che mi frega, tanto non uso Android. Neanche io in realtà, quindi... Però sarebbe carino magari poter installare un'app dentro un apposito emulatore Android, tipo per provare qualche app per Android su Debian, una cosa del genere. Mm-hmm. E credo che questo sia un collegamento con le prossime notizie. E penso, stavo giusto per fare il ponte, mi hai anticipato. Questa cosa dell'emulatore, anche se in realtà non è proprio un emulatore, potrebbe anche essere che arrivi, dato che Purism, la società che sta sviluppando il telefono Librem 5 e il software che ci gira sopra, dato che il software, appunto, il sistema operativo è fondamentalmente è Debian, è basato, cioè è Debian, poi l'unica cosa diciamo che non è ancora ufficialmente in Debian è la parte di interfaccia grafica che è ancora in via di sviluppo. Comunque uno dei componenti che si presume arriveranno, prima o poi si spera, è Endbox, che in realtà è un container, LXC, poi io su queste cose non sono molto ferrato, comunque è un container che permette di eseguire applicazioni Android su una distro Linux fondamentalmente. Per cui se portano Nbox a funzionare su P Pure OS fondamentalmente lo portano a funzionare su Debian e quindi si suppone che prima o poi arrivino i pacchetti anche in Debian e quindi si potrà fare anche su desktop questa cosa di eseguire applicazioni Android all'interno di Linux. Ovviamente applicazioni Android compilati per il processore su cui stai girando, perché non fa, non è, non essendo una macchina virtuale ma solo un container, il kernel è quello che gira, per cui deve essere, se sono applicazioni Android x86 va bene, se sei sul portatile, se no diventa difficile. A meno che non hai un bellissimo Questo portatile ARM. è molto interessante perché appunto qui dentro c'è gente a caso che potrebbe avere un portatile ARM, che è interessata ai device mobile basati su Debian, a cui però effettivamente ci sono un paio di app Android che interesserebbero. Esatto. Yeah. E a proposito di device ARM, attenzione, attenzione ragazzi, perché è notizia ormai di dominio pubblico che a partire dall'inizio di luglio, anche se non è ancora stata data una data, non è stata data una data precisa, si Beh, la data sarà apriranno. data Sarà circa. data una data, cioè perché tu dai È una una data data che è che non è quella. data di Star Trek, ma è data. Ah, giusto. Non è dato sapere la data che verrà data. Brava. Ok, giusto. Datamente. Dicevamo all'inizio di luglio, quindi si apriranno le prevendite per il secondo La seconda mandata. stock di PinePhone con preinstallato un sistema operativo. È già stato fatto questo lavoro col primo batch, l'hanno distribuito con installato Ubuntu Phone, fondamentalmente UbiPorts adesso si chiama, se non Ubuntu sbaglio. Ports. Poi il nostro buon alieno che è in chat, se è ancora in chat, ci farà sapere se gli è arrivato, perché No, non è ancora arrivato. va bene, ma prima o poi gli arriva, io sono convinto La di prima questa cosa. mandata non è arrivata, la seconda forse arriverà, bah, forse Se fine anno. Quindi se, no, no, ma a quanto pare se si preordina il prossimo batch, quello diciamo di inizio luglio, che verrà distribuito con preinstallato, come si chiama? Ubuntu Touch? No. Post-Market OS. Post-Market OS. Esatto, acquistando questo secondo batch molto probabilmente vi arriverà a casa prima del telefono che il nostro buon amico alieno ha già ordinato un mese e mezzo fa, tipo. Ma dopo questa perculata, se mi passate il francesismo, andiamo un attimo nel dettaglio. Post-Market OS, magari tutti voi già sapete cos'è. Post-Market OS è una distribuzione Linux che è fondamentalmente basata su... c'ho dei vuoti di memoria stasera, è gravissimo, è veramente grave. Su questa distro leggera che viene usata di solito nei container, che adesso Diego ci dice come si chiama, Alpine. Alpine, grazie, Alpine. vedi? Ma io lo faccio per, insomma, per dare un po' a tutti del mondo di dire qualcosa. Grazie, grazie. Tutto fatto apposta, tutto Studiato a deciso in tavolino, anticipo. siamo messi malissimo. Comunque, basata su Alpine, dicevamo, Post-Market OS, il cui scopo sarebbe quello di rendere nuovamente fruibili device cellulari diciamo fuori mercato, cellulari che non vengono più aggiornati dal produttore. La loro idea era quella di supportarli e quindi dare la possibilità di installare questo sistema operativo alternativo basato su Linux. Chiaramente, essendo il PinePhone aperto e disponibile a questo tipo di smanettamenti, si sta lavorando non poco per portarlo a funzionare completamente correttamente su questo device. E quindi il E su prossimo. questo potrei dire, scusate, alzo la mano, che sul PinePhone ormai ci gira tutto il mondo, nel senso che è talmente aperto che potreste installarci un Arch Linux, potreste installarci un Ubuntu 20.04, un Gentoo, lo stesso Alpine, NetBSD. Ultimamente ho visto anche che c'è gente che ha addirittura installato NetBSD, OpenBSD, la famosa Armbian. Poi RISC-OS, Debian Pure. Mainline, perché non ci scordiamo di Debian Mainline, Ecco, stavo giusto aspettando, ma Debian non la cita. Sì. Cita, cita. L'unica cosa che Poi non ci gira in Mangiaro. questo periodo è l'aria, ma dipende più dal meteo. Mangiaro in versione sia KDE che SFCE, poi Fedora, Comodo ovviamente, sul telefono, poi SFCE. Linux e poi non mi viene in mente altro, ma però ce n'ho altre. Esatto. Quindi diciamo che essendo un device ARM aperto, le possibilità sono pressoché infinite. Questo batch che sarà appunto disponibile a partire da luglio sarà, diciamo, venduto con preinstallato appunto post-market OS, con l'interfaccia grafica basata su GNOME GTK sviluppata da comunità, ma principalmente da Purism, che è appunto Plosh, Plosh, Posh, Plosh. Insomma, Posh, posh. questa interfaccia che appunto è disegnata sull'interfaccia di GNOME fondamentalmente, ma adatta allo schermo dei cellulari. Dal punto di vista hardware, com'è questo pinofonino? Ma dunque, praticamente no, tipo, è stretto, cioè è basso, è rettangolare, c'è cioè uno schermo sopra e una batteria dietro. Oh, ho capito. Volevi qualcosa No, di più ma è tecnico? sì, del tipo, che ne so, la tipologia di processore, la quantità di RAM che su un pinofonino potrebbero anche, diciamo, Ma è per questo motivo fare. che ti abbiamo invitato a questa puntata di Ecco. Opencast. E quindi, sì, diciamo che è un hardware sufficiente per il mio. Anche in visione futura di rimpolpare con altri sistemi operativi più o meno pesanti. Però ecco, io avrei messo un po' più di RAM, sinceramente, e il processore Ma tiro bene anche sai, questo, perché col senno di poi però mettono tutti più ecco, RAM, eh. no, la RAM potrebbe servire anche per la reattività soprattutto, però ecco, Dipende visto come che si cos'è l'altro, porta perché poi il sopra. Scusami, la UI è GNOME, quindi abbastanza mattonata, ci Diego. sta un po' più di RAM. Poi ci sono vari pulsanti hardware interessanti per il scollegare completamente il wifi o Sì, il Pinephone ha altro. del deep switch sotto Esatto, dei deep switch. Sì. il dietro. Aprendo il dietro dove c'è la batteria ci sono dei deep switch che permettono di Batteria scollegare ricaricabile e elettricamente. cambiabile. Esatto, batteria Esatto. sostituibile, non integrata, il che Assolutamente. vuol dire tanto. Per chiudere un attimo, quello che verrà appunto venduto nei prossimi giorni è ancora comunque un device di sviluppo, dove il software non è ancora, diciamo, ottimale per l'utilizzo di tutti i giorni, e probabilmente anche l'hardware potrebbe avere qualche baco, anche se penso che sia ormai abbastanza stabile da quello che ho sentito in giro. E soprattutto, e questa è la cosa più importante, sul retro ci sarà il login di PostmarketOS inciso sul case, giusto per. Ah, tornando all'hardware, posso dire che comunque un quad core secondo me è più che adeguato. Però ecco, i 2 giga di RAM sono un po' risicati. Il Non so, display. allora, io dai video che ho visto non l'ho visto far fatica, però chiaramente. Beh, oddio, No, quello che conta dipende. molto. 2 giga sono pochi per chi è un sborone che deve andare in giro a far vedere che ha più triangoli degli altri. Ecco, la cosa importante sono i triangoli, cioè il problema grosso fino a qualche tempo fa era l'accelerazione hardware della grafica che non era completa e che No, no, no. quindi dava adito a lentezze nella reazione dell'interfaccia. Se tu mi apri 4, 5, 6, 10, 15 applicazioni oppure una ventina di tab su Firefox, Ma lo sai su un com'è? Dopo una, cellulare. due, tre, quattro, cinque, Insomma. sei, sette applicazioni. Ciao, come Allora, la E il domanda è modem? perché? Uno. Perché c'è gente che lo fa, non ho detto che tu lo devi Ma fare o io devo vabbè, ma ho farlo. capito, ma perché? Perché? Aggiungo Bluetooth 2.4.0. Questo è interessante, così mi si collega all'orologio. Ecco, mentre quanto riguarda invece il GPS, abbiamo il GLONASS GPSA e poi il classico GPS. La front camera è una 2, è una 5 megapixel, scusate, la rear, e la fronte è una 2, quindi il minimo sindacale, diciamo. Insomma, Poi, per quanto riguarda i sensori, abbiamo il solito sai che acceleratore, lo il sboro non sensore funziona. giroscopio, la prossimità, il barometro e la luce ambiente, e basta. Insomma, direi niente di più standard, ecco. Batteria da 3000 mAh, quindi ci si aspetta, a fronte anche di una pesante ottimizzazione, si suppone del device una durata oltre la giornata. Anche lì dipende se uno ci spippola la mattina e la sera, Se apri 19 applicazioni e 24 tab di Firefox, no. ma no, se tiene l'LCD, perché è quello che consuma l'LCD, ragazzi. Cioè. Nel qual caso io consiglio di portarsi a tracolla una batteria d'automobile Sì, giusto. e collegarla Oppure a quella. un power bank semplicemente. Per dire. Comunque, ricordo Niente. anche che come fascia di prezzo è di fascia media, medio-bassa, considerando che le quantità di produzione sono piccole, quindi il prezzo si alza rispetto a quello che può essere un cellulare di marca che produce per il Indubbiamente, mercato normale. indubbiamente. Il volume fa il prezzo, giustamente. Se tu hai tot ordinazioni o hai in prospettiva di farne, che ne so, 50.000, 100.000 pezzi, avrai un costo a livello industriale. Se tu invece ne vuoi fare 4-5 milioni, ne avrai un altro. Anzi, secondo me il prezzo, che non abbiamo detto ancora, mi sembra intorno ai Allora, 150 euro. dovrebbe essere sui 150, 160, 150 dollari se non sbaglio, dovrebbe essere una cosa così. È secondo me più che adeguato alla classe del dispositivo e soprattutto al fatto, come diceva Elena, del numero di tiraggio del device in produzione. Esatto, fai due conti più o meno, arrivato spedito a casa dovresti aver speso circa 200 euro, così ci dice il nostro buon amico alieno. Già. Comunque, device caldamente da consigliare anche in virtù dei futuri spippolamenti che è possibile farci sopra, esperimenti vari, veramente, veramente appetibile. Poi, ad esempio, se l'idea di avere un cellulare su cui per fare e ricevere telefonate serve un comando da riga di comando, al momento è perfetto. Ma credo che adesso, a parte gli scherzi, credo che l'app di telefonia diciamo di Plush, quella Gnome, chiamiamola, dovrebbe essere Posh, funzionante. Che poi tu lo senta, non sono sicuro, non lo so. Però dal punto di vista di fare il numero dovrebbe funzionare. sì, attiva, confermo, è funzionante. Esatto, diciamo che è Chiara un e device per ricevuta. chi piace, per chi ha piacere a sperimentare cose che potrebbero anche non funzionare. Ecco, chi si aspetta di avere il telefono che funziona tutto al primo colpo, che va tutto quello che gli serve, eccetera, eccetera, no, non è ancora considerato un telefono adatto all'uso generico di tutti i giorni. Però per lo Anche perché, smanettamento. ricordiamolo, non ci girano nativamente applicazioni Android, A meno che non quindi ci stai Android. esatto. Però mi perde un Ma po'. vanifica l'acquisto, insomma, no? Esatto. Credo che sia disponibile, ma perché? Già, è disponibile, ci gira tranquillamente la ROM. Però è chiaro, che senso ha comprare un dispositivo così per metterci su Android? Tanto vale prenderne un altro, insomma, no. Esatto. Nel caso invece vogliate un qualcosa di, diciamo, ancora più da metterci le mani, meno smart, diciamo, un po' più stupido, ma da un certo punto di vista, da un altro punto di vista veramente molto intelligente, ci sono diversi progetti che realizzano cellulari utilizzando, diciamo, cellulari fai da te, che te li costruisci, spesso utilizzando anche Raspberry per fare diciamo, il cervello del cellulare. Uno di questi progetti si chiama Ringo, è un kit di montaggio, bisogna dire che il prezzo non è proprio accessibilissimo, è più che altro un appunto un kit di montaggio anche magari adatto ai ragazzi che si vogliono approcciare a questo genere di cose e permette di costruirsi con le proprie mani il proprio cellulare e probabilmente anche sviluppare il software, credo in Python, se non ricordo male, per dire, Dovrebbe accettare anche i comandi AT per le chiamate, i classici sì, no, comandi i AT. modem in generale tutti. Quasi, sì, la maggior parte. Comunque tutti i link a tutto quello che vi stiamo raccontando, se volete andare a approfondire, li troverete sulla pagina di questo video quando lo caricheremo su PeerTube, dove troverete la registrazione, sperando che sia venuta. E comunque faremo anche un bellissimo post sul nostro sito www.gl-como.it, per cui se volete venire a risentirci, a rivederci e a cliccare su qualche link www.gl-com.it, dove trovate anche la puntata precedente, la numero 0, e trovate anche quello che abbiamo inventato la scorsa 2 settimane fa, quando è stato questo mini progetto chiamato Sales Pitch per linguaggi di programmazione, dove a turno si cerca di convincere gli altri a provare un nuovo linguaggio di programmazione. Ci sono i video sul nostro sito, andate a vederli. Direi che siamo addirittura d'arrivo. Se voi avete qualche altra cosa da dire, volete salutare casa? Ecco, Ciao mamma! per esempio, grazie. Questa cosa manca, capisci? Ci vuole quello che saluto a casa, ciao mamma. Io vi ringrazio per essere stati pazienti a averci seguito, ringrazio Elena e Diego da Varese che fanno gli inviati dall'estero praticamente. Ringraziamo nostro Alberto che è lì sul confine anche lui, perché non è proprio. Sì. E vi diamo appuntamento direi il mese prossimo perché abbiamo preso questa decisione di andare in onda una volta al mese. A meno che non sia così interessante che ci scrivete e ci mandate dei messaggini dicendoci no, lo vogliamo più spesso, fatelo tutti i giorni. No, tutti i giorni no. Però, vabbè. Nel caso venite a seguire il profilo del gruppo Linus Como sul Fediverso, per cui se avete un account Mastodon, se siete su Friendica, se siete su Diaspora, potete venire a cercare il GL Como e seguire le novità. Io saluto tutti quanti. Potremmo chiudere, questa cosa in realtà non l'avevamo ancora decisa in fase di organizzazione prediretta, ma io ho pronta una musichina presa da Jamendo. Se la cosa vi Bravissimo. garba, Ci chiuderei sta. con un video musicale perché abbiamo trovato, questa musichina da Jamendo Chiarissima. è fornita anche di video musicale preso da YouTube, quindi vi ricordo per chi non fosse un habitué di Opencast, che Jamendo è una piattaforma online che raccoglie musica con licenza Creative Commons e quindi ci garba di farvela sentire, una licenza che permette appunto l'ascolto, la condivisione, a volte lo riutilizzo, lo smantellamento e il remissaggio. In questo caso io direi di chiudere con questo video. Loro sono the Green Duck, sono le papere verdi. Non chiedetemi perché, ma sono verdi, sono papere. Il pezzo è Blow It Away, un po' country. Chiudiamo così, un po' country. Saluti a tutti. Basta. Ciao casa, ciao ciao, Ciao. ciao mamma, Ciao. ciao ciao ciao. Tonight we're gonna drive a long, long time. I got a girl, And tonight we're gonna leave it all behind. All the wasted time is gone. We are not young anymore. You know what we're waiting for. From this moment we are born, we are born.